Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Far and wide I search for the coin in the mouth of the fish and I have found nothing yet. Erano veramente molti mesi che non mi capitava di incrociare la ragazza con la chitarra. Ve la ricordate? Mi ha allietato più di un viaggio nei tempi passati, mi raccontava le sue storie, mi faceva sentire le sue canzoni. Un periodo ha anche provato a raccontarmi le sue letture dotte, ma è stato il periodo peggiore, in cui la ragazza con la chitarra probabilmente cercava una sua dimensione interiore. Poi la trovò, si trovò un fidanzato e adesso viaggia sconsolata, canta e suona la chitarra, ma nella sua voce c'è qualcosa che mi fa immaginare che probabilmente quell'amore non ha avuto l'esito che lei sperava. Ragazza con la chitarra, perché questo canto triste? Era da tanto che non lo sentivi, eh? No, così no. C'era una pausa, c'è stata una pausa lunga. Sì, ma stai facendo trasudare tutto lo scompartimento di lacrime, cosa è successo? Non è triste questa canzone. No, è un'allegria, è un po'... No, è un po' come per dire... Va bene, anche stavolta è andata bene, differente. Beh, uno mica fa i salti di gioia quando non va bene. No, però è come per dire, sai che ti dico... Fate un po' come vi pare, questo è un po' il... Ecco, adesso che hai fatto questa semplificazione, andiamo alla radice del problema. Perché sei triste, ragazza con la chitarra? T'è andato male qualcosa? Mi è andato male qualcosa che pensavo non dovesse andare male, anzi non andasse male. Cioè ti sei mollata col fidanzato? Sì. Tanto basta dirlo, quando una donna la prende tanto larga, ma... c'è un problema esistenziale. Magari c'è anche altri problemi, tipo che ne so. Sì, ma non fanno mai suonare delle musiche triste gli altri problemi, fanno sbattere la testa sul muro, fanno fare sciocchezze, ma mai questa canzone... È un'ispirazione, no? Vabbè, tu devi contaminare tutto lo scompartimento col tuo male d'amore. Con le mie lacrime. Sì, le ridi però. E rido, che devo fare? Piango? Ma è una storia. Lunga. Dopo piango quando canto. Una storia lunga. È una storia, corta non è stata. Comunque cioè, quanto è durato? Tra una cosa e l'altra un anno. Un anno è tanto, un anno è molto. Anno è abbastanza. Che investimento hai fatto su questo? Io non ho fatto nessuno, io ho fatto un investimento del presente. Cioè, la presente. E allora, sta contenta, che ti del frega. Presente. Sei già nel futuro. Sì, vabbè. Ok, però l'investimento del presente presuppone un bel presente. T'ha mollato lui o l'hai mollato te? No, io ho fatto il punto. Cioè, io sono andata e gli ho detto: è finita. Gli ho detto: che dobbiamo fare? Nel senso, tutto quello che. Cioè, che è così che andrà avanti la nostra relazione nel presente, non ti voglio sposare, voglio andare a convivere. Però era quello che volevi. No, ti assicuro di no. E se allora me l'avesse chiesto lui, bene? Sarei scappata da un certo punto di vista. Non mi andava bene perché non era un presente assente. Cioè, fammi capire in era termini un presente concreti. Assente. No, perché non è una cosa che riguarda più ormai la mia generazione, ma voglio capire oggi le donne. cosa pensano. Tu giovane ragazza con la chitarra fa questo discorso ingarbugliato per cui uno ti dice cosa ti sei bevuta, che problema hai, ti accompagno da un bravo dottore, cioè perché fai, che vuol dire, che siamo in un presente, dille in parole povere le tu cose vuoi, sono, ti sei rotta le scatole te di lui? Ma tu hai detto una cosa, tu vuoi sapere cosa pensano le donne? Io voglio sapere cosa pensano gli uomini. Ma io una che mi avesse detto qualcosa del genere quando avevo 30 anni avrei detto ma che c'hai cosa? Dei problemi. Ma che ti ho detto? Il presente assente. Che vuoi? Presente assente. Che ti manca? Che mi manca? Mi manca la persona con cui sto. Se una persona ti manca anche quando ci stai, mi spieghi come puoi starci? Vabbè, vuol dire che ti sei rotta le scatole, tanto semplice. No, me l'ha fatta rompere lui, è bruttissimo. Vabbè, comunque te le sei rotte, chiaro, uno mica se le rompe È bruttissimo quando una storia finisce che ancora non è finita. Finisce mentre stai lì che non capisci e ti sforzi e ti sacrifichi. Allora dico, no? Ma questo che vuol dire? Scusami. Una storia finisce quando uno dei due non ce la fa più. Evidentemente tu ancora... Io non ce l'ho fatta più. E basta, è finita allora. Sì, ma la cosa che mi sconvolge è... E dimmi se era così anche prima. O prima o dopo, non ha importanza. Ma è tutto comunque, più semplice. Ma è possibile che se io vengo là, ti affronto, ti dico quello che penso, tutto quanto, poi tu mi lasci semplicemente andare alla deriva, così? Vabbè. Beh, che lui si è rotto Ne parliamo un altro giorno. Si è rotto le palle prima di te. Non è mai arrivato. Vabbè, si è rotto le palle. Ma scusami, le palle che si è rotto, potevo utilizzarle e tirarle fuori per dire... Ma perché? Guarda, lasciamo sta. Allora, mi dice perché una persona dovrebbe affrontare il disagio, il fastidio, la noia di prendere l'iniziativa per primo, fare questo discorso ad una persona, se la tiene finché l'altra gli va, finché l'altra ancora resiste. Ma se la tiene di cosa? Ma che se la tiene, cosa intendi per tenersela? La ripresina ogni tanto, fra un'uscita e l'altra c'è sempre la fidanzata, questo penserà lui. Il treno va. Non dico lo penso io, lo penserà lui. T'ha tenuto. Ma tu faresti così? Ma, cioè, ma quando ero giovane lo facevo. Cosa? Quando ero giovane lo facevo, certo, cioè, ragazzi. A un certo punto. Ma l'uomo non gliene importa nulla di queste cose. L'uomo c'ha la testa da parte. Gli importa di iniziare, ma non di finire anche in un giusto modo. La parte piacevole dell'inizio c'è sempre. La parte dell'acme del rapporto è bella quando una persona ti ama, ci stai bene. Bello. Sì, è bello, ci stai insieme, c'è l'entusiasmo così. Quando finisce l'entusiasmo, un uomo di solito non è che molla subito. Ti tiene sempre a bagnomaria. Si guarda intorno, magari ridà qualche occhiatina in giro, si fa qualche ripresina con qualche ex, e intanto tiene lì, finché dice, questa tanto si stufa, quando si stufa se ne va da sola, perché devo perdere tempo adesso a affrontare un dramma, una separazione? Allora, se io dovessi credere a te, se io dovessi credere al tuo discorso, a quello che stai dicendo, vuol dire che allora una donna si deve prendere in mano la responsabilità di non di iniziare una storia, perché finché si tratta di iniziare gli uomini sono bravissimi, ma di finirla. Beh, certo, rendi le cose più semplici anche a noi se finisci te, certo. Ok, allora grazie. Ci fai un favore. Arrivederci. Ma non è che la pensi così in assoluto. Indagando nella mia memoria remota, mi sembra quando uno è ragazzo pensa così, vuole stare leggero, tranquillo, non vuole pesi. E non pensi che sia anche carino il modo in cui può... Cioè, nel senso... Parlare. Ma che parli fa? Quando è finita. Parlare è una violenza, è diventato. Perché se tu parli rompi già le scatole. Sì, è vero, un po'. Cioè, inizi a parlare, ecco Dio, adesso allora, per dire cosa, posso dirti una cosa? Con tutta la tenerezza che ho per te, ragazza, con la chitarra. Già lievemente comincia a incresparmi le gonadi solo sentendola raccontare e non sono coinvolto. Tu pensa a lui, poveretto, che dramma è dover parlare con te di questa storia finita. Ma allora, allora io pure dovevo sparire, così almeno tutte e due consenzienti sparivamo e la storia finiva sparendo. Lasciavi un bel ricordo. Però se sparivi. No, perché poi mandare messaggi e fare finta di niente. Ciao, come stai? Non io, Lui. Ma che senso ha? Perché rimane sempre questa sorta di cortesia. Amico, sì, rimaniamo amici. Poi ormai una volta si trova proprio all'asciutto, ti richiama, forse ancora qualcosina riprende. Ah, la ripresina, La ripresina. Ognuno di noi è una ripresina per qualcuno. Vabbè. Non noi maschi, poco. No, ma non è neanche una ripresina, è un ciao, come stai? Poi io rispondo per cortesia e neanche risponde. Ma sai che ti dico? Vabbè, hai risposto, già l'hai rassicurato sul fatto che ci sei, perché devi risponderti ancora. Ti richiamerà fra una settimana, fra un mese, poi magari sotto Natale si trova solo, ti richiama, dici che bello, andiamo scartiamo insieme. Insieme in settimana bianca. Scartiamo i regali insieme. E magari per lui sarebbe come ricominciare dall'inizio. È troppo semplice. Vabbè, perché cos'è questo gran regalo che fate voi per cui uno deve essere gratificato? Il rapporto deve essere su un piano paritario. Anche lui ti avrà dato qualcosa, no? Ma infatti è bruttissimo però il modo in cui sta sfumano le cose. Allora, è stato bellissimo. Stringiamoci la mano, guardiamoci negli occhi, ciao. Succede, ma non succede mai così. Ma perché nemmeno non ci sono le palle che si rompono? Ma no, ma non sono le palle, perché non è così, non si può mai radicalizzare. Ricordiamo ai signori viaggiatori che il treno va non effettua servizio di prenotazione obbligatoria con posti assegnati. La storia è bella finché è bella per tutti e due. Quando per qualcuno comincia a essere meno bella, la storia è destinata a finire. La fine è sempre brutta, triste, non è mai bella, non è mai divertente. Quello che però non capisco. Come finisce, finisce. Non c'è una bella fine, è sempre brutta la fine. Aspetta, quello che io sento anche dalle mie amiche, dalle persone, non è come. Non è la storia di per sé, se è stata bella, cosa ci siamo dati. È ovvio che finché è bello, no? Non si scambia le cose, eccetera, eccetera. Non è quello. Il rimpianto, il coso amaro, te lo fai venire per come vengono fatte finire le cose senza affrontarle. È quello che gli uomini dovrebbero prendere un po' più di, cioè, le palle che si rompono, posso dirlo, perché per noi non è mai prioritaria sta roba qua, è roba vostra, non è mai non è prioritario decidere se avere o no una persona nella propria vita. Ma che vuol dire avere una persona poi? Voi eravate, sei una ragazzina, eravate fidanzatini. Ma che c'è? Andate, uscivate qualche volta. Ma 7 anni. Vabbè, quanti anni hai? Ma non è vero, sono 28. È 28, vuol dire uscire, avere qualcuno con cui uscire. Si sta formando la vita, sta creando le basi per un lavoro. Ma come le mie amiche, hanno i figli, sono sposate. E poveraccia, lasciale perdere, che vuoi fare come loro? E trovati uno che ti sposa. Sì. Ah, trova uno che ti sposa. Ma no, ma non è, no. Trova un uomo trastullo da sposare. Ma che lo trovi, non lo trovi mai. Comunque, vabbè. Sempre almeno lasciami cantare e lasciami suonare. Cioè, tu già fai il conto delle amiche sposate, ci ho ancora qui, già sento l'orologio biologico. No, ancora io non ho parlato mai di orologio biologico. Però dici l'amica con i figli. Per dirti che a 28 anni non ce n'hai 12 che dici usciamo e andiamo a prendere il gelato. No, perché così anche a 50. Ma certo, è bellissimo, però. Io conosco cinquantenni, uomini e donne che ancora vanno agli aperitivi per conoscersi. Sì, no, vabbè, ho capito. Porti un'amica. C'ho ancora amiche che mi chiedono. C'è qualche amico da presentarmi? E hanno 45 anni. Ma sì, però non è che ci esci, dici. Ah, io chi li porto? Porto i miei colleghi sessantenni al sesto matrimonio. Cioè, mi vergogno. Ma che porto? Non c'ho niente, non c'ho materiale. Triti e ritriti. Non so. Comunque. Non esiste più materiale umano di genere maschile. Comunque, dimmi spendibile. Qualcosa per farmi stare meglio, non per farmi stare peggio. Allora, la storia è finita e non ci piove. Ma può essere anche che riprende corpo perché. Ma io non voglio! Ma che non vuoi? No, non lo voglio, no. No, sono raffreddata. Non lo vuoi proprio più? No, trovatene un altro. Sono delusa solo. Vabbè, ma trovatene un altro. Scusami, un altro, ti faccio un esempio. Sì. Cosa avrebbe cambiato se lui fosse venuto da te? Ti avesse invitato a cena di fronte la miglior storia possibile, cara. Devo dirti da uomo, siccome ho le palle, che la nostra storia è finita. Non dipende da me. Sai, è il fato. Quando l'amore finisce, è l'amore finisce. No, passa la banda e se ne va. Io voglio che ti cambia. No, volevo averlo io il fatto di parlare, ma volevo un'altra persona che mi dicesse davanti a me, ok, hai ragione, effettivamente c'è qualcosa che non sta andando bene. Ma sono magari lui manco si è posto il problema, sei tu che ma te lo sì, poni. Ma infatti, cioè, magari stava guardando l'ora, dice, senti, ma vieni qua all'ora di cena, posso ti rompere ma le scatole ragione, e mangiamo. Infatti. L'amore è sempre asincrono. È sincrono nella vita almeno per 3 secondi in una vita di 90 anni. La sincronia sentimentale. Così. E sono bellissimi. Però non sono mai le persone con cui poi fantastici. Passi tempo. Sono persone che incontri per caso, poi finisce certo, così. Certo, è vero. Perché il tempo ti ammazza tutto. Le storie o finiscono, e la tua è finita, o hanno un'evoluzione storica, nel senso che poi stai insieme, fai figli, ti sposi, queste cose ma qua. Ma che sia, l'ultima cosa, che sia ben inteso, io sono veramente grata per tutto quello che ho vissuto di bello con lui. Il problema è che poi così, quando c'è l'ultimo sapore, quello più amaro, ti rovina tutto il ma gusto. Ma sempre sarebbe stato amaro. Prima. Ma non può essere dolce no, la separazione. Okay. Ma quando mai può essere dolce una separazione? Lo sai quando può essere? Sì. Quando tutti e due ammettono che effettivamente è finita quella scintilla e basta. Ma che si ammette? Ma puoi razionalizzare. È una cosa più matura così, piuttosto che. Ma che matura? Che dire, ma cosa stai dicendo? La maturità dai, è l'antitesi della passione. Non queste cose. Non adesso. C'è nulla legato alla passione che possa essere maturo. La passione è fanciullesca. Col senno del poi, certo. Ma no, ma sempre. Quando ci mettiamo di mezzo la ragione. Ma non. Se c'è la passione, non c'è la maturità. Nel momento in cui non c'è più la passione, c'è la maturità. Ma quando non c'è più la passione, sei un involucro di carta straccia da buttare via, che le patatine sono finite, dai. E lì c'è la maturità. Ma che maturità? C'è la maturità, c'è la data di scadenza. Non c'è più la passione delle patatine. Vabbè, senti, fattene una ragione. Non gliene frega più una mazza di te. Zero, finita. Allora, morta. Non c'è problema. E allora che cantare vuoi? E lasciami non importandogliene più nulla di te. Proprio non te vuole più. non ha, se manco posto il problema di chiudere bene la storia. Ma non lo voglio io, non è che non mi voglio. Tu ancora ci pensi, io stavo già pensando. No, tu mi hai chiesto cosa stai cantando. Alla sesta persona che ha conosciuto dopo di te e come fare a levarsela dai piedi, tu ancora stai a pensare a lui, dai. Dai, ragazzi. Fammi cantare anche per queste ragazze. Vabbè, ma canta per te, canta allegra, trovi qualcuno ti fa stare allegro, sei allegra te. Ma adesso cambio canzone. Ma tanto dai. Era un farlocco, te l'ho sempre detto che era un farlocco. Scusa, te l'ho sempre fatto capire. Questa cosa non me la ricordo. Sì, te l'ho sempre fatto capire. Tu mi hai detto, ma che ti frega, vivitela. Io me la son vissuta. Basta, allora di che piangi? Non lo sto piangendo. Se tu fossi stata non la ragazza con la chitarra, una donna calcolatrice, l'avresti tenuto per la collottola, l'avresti fatto soffrire, ti tolgo e ti do, ti saresti... Invece sei stata generosa e sii felice e contenta la tua generosità. Il farlocco se ne va per la sua strada e tu te ne trovi un altro. Fine. Sei giovane. Vabbè, sai che nostalgia. Ciao, va. Ciao, grazie mille. Il treno va. Sto facendo felicemente il mio viaggio con una simpatica signora straniera accanto. Che è straniera, le si legge in faccia. È chiaro che viene da un paese lontano, ma è totalmente italiana per come parla, per come si comporta, per i racconti che fa. Racconti di vita quotidiana. Mi sembra impossibile che anche venendo da un paese lontano le è bastato per un attimo sposarsi così, casualmente, un uomo italiano che l'ha portata in un condominio italiano che improvvisamente si è trovata di fronte ai nostri annosi e immarcescibili problemi di convivenza con i nostri simili. Il suo problema sono i vicini di casa, quindi? E erano, ed erano vicini di casa, sì. Vicini, vicini quanto vicini stavano? Vicini, io abitavo al secondo e gli altri abitavano al terzo. Quindi le camminavano sulla testa praticamente? Praticamente sì, sulla testa durante il giorno, in modo particolare alla sera. Chiaramente sulla camera da letto, posto più importante. Tutta la casa in poche parole. Ma quante persone erano questi vicini? Una famiglia? Marito e moglie, un figlio, un ragazzino, un minorenne. E qual era la cosa che le dava più fastidio? La cosa che mi dava più fastidio è che praticamente... dovevamo, come dire, in silenzio, no? Perché comunque in un condominio dove praticamente si era tutti eravamo uniti, meno che loro, e quindi c'è una specie di, secondo me, gelosia. E quindi noi avevamo appena ristrutturato la casa, appena arrivati, e se l'hanno preso con noi, io e mio marito, che è di qua, italiano. E alla fine la situazione era che lei proprio camminava, metteva i tacchi apposta e camminava, tant'è vero, e anche camminando insomma sul pianerottolo, le risate, i sorrisini per i dispetti, proprio ci ha fatto tanti dispetti, ha recato la macchina mio marito, la Mercedes. Ma perché ce l'aveva con lei? Cosa l'aveva fatto? Ma cosa l'aveva fatto? Ma che l'aveva fatto? Come mai ce l'aveva con lei così subito? E io credo ho imparato con gli anni gelosia, invidia. Ma perché lei è più bella della vicina? Qual è? Ma io credo invidia in generale. Sono persone che nascono, diventano poi così. Nascono e poi diventano, si incattiviscono. Questo è quello che ho capito. Ma cosa c'aveva da invidiarle? Cominciamo a capire. Io dico nel palazzo, perché si erano auto-isolati. Questo è. Sono persone caratterialmente, come dire, cattivi. Perché è quello che ho visto poi dopo, quegli anni. Cattivi. La cattiveria al massimo era camminare coi tacchi, mi sembra anche la una cosa stupida. La cattiveria al massimo era il fatto che si sentivano isolati, quindi noi, essendo i primi arrivati, pensavano che magari potevamo essere da parte loro, e quindi noi non capivamo nulla, salutavamo tutti, però abbiamo poi capito che lì c'era un problema, un condominio che quel proprietario di sopra, di noi, non andava d'accordo con nessuno, e noi ci siamo trovati in mezzo, noi appena arrivati, alla fine ce l'hanno preso con noi, perché comunque noi salutavamo gli altri. Questo è il punto. Ah, c'era una sorta di guerra di condominio. Esatto. Questo. E non vi perdonavano che voi non aveste preso le loro parti. Ecco. È proprio così. Ripeto, noi siamo trovati, mio marito ha rifatto le verniciature della macchina completa e io ho dovuto rivendere la mia macchina a prezzo ridotto. Ma come fa? Siete sicuri che è stata questa signora, ragazzi? No, 100%, ma addirittura per dire nel momento del trasloco, mio marito in pianerottolo, lei parlava, ripeto, provocava anche mio marito, proprio per pur di prendere, magari dare uno schiaffo. Ma no? Provocava in che provocava senso? In tutti i modi. Con me no, perché comunque non c'è mai, non abbiamo, come dire, ce l'avevo, diciamo, un modo particolare con mio marito. Ok, con mio marito. Ma era giovane questa signora, bella? Beh, signora, io ho 47 anni e la signora più o meno della mia età. Si ricorda ai signori viaggiatori che non è consentito l'uso promiscuo dei servizi igienici durante il transito in galleria. Secondo lei ci provava con suo marito? Ma no, io credo proprio una cosa, una cattiverie gratuite, veramente. Ma nella vita cosa faceva questa signora? Lavorava? Lei faceva la commessa, abitavo a Parma all'epoca, e lei faceva la commessa e suo marito, non mi ricordo adesso cosa facesse, so che suo figlio andava a giocare a tennis, tant'è vero che abbiamo messo questa cosa sul giornale, mio marito ha chiamato, cioè la Gazzetta di Parma, mi ha parlato, è uscito sul giornale, e la casa su Viale Solferino ancora di Parma, e chiaramente e anche lì un po' i vicini sono venuti a sapere di più, senza dire i codici, insomma il numero della casa, chiaro, però come dire, non saprei. Ma sul giornale cosa hanno messo? Qual era la notizia? La notizia sul giornale, che era successo? Sul giornale chiaramente riferivano il fatto che un condomino che diciamo come da parola italiano che disturbava con i tacchi durante il giorno in modo particolare la notte, tant'è vero che io in camera, tra l'altro tra camera mia, mio marito e mia figlia che era piccolina, aveva neanche 3 anni, il mio figlio che aveva 1 anno e mezzo, io mettevo la sera, mettevo la musica per aver pace, per farla capire che ho capito anch'io, mettevo la musica e chiudevo la porta, provare a dare un pochino di disturbo, ma alla fine non andavo nessuna parte. E tutta la notte camminava con i tacchi? Tutta la notte, cioè i miei orari più importanti di riposo, ma tant'è vero, quando abbiamo fatto le denunce, Prima di denunciare non ci avete parlato? Erano persone aggressivi, molto aggressivi. Cioè o stavamo con loro. Stare con loro vuol dire che tutto condomino dovevamo stare, poi dopo ci avrebbero guardato male, ma noi nella norma serenità, giovani coppie, si immagini, eravamo tranquilli. Ma qual era il motivo di questa guerra di condominio? Qual era Invidia. Ci vuole, come diceva a te punto, non mi ricordo più il nome, di un referente all'interno del condominio, per forza, ci vuole, per avere un po' di pace in generale, secondo me. Ma voi avete cambiato casa per colpa di questa vicenda? Noi poi avevamo già l'idea, perché già, però quello è stato un motivo in più per farmi scappare. Praticamente siamo scappati, in poche parole. Abbiamo venduto la casa di corsa, siamo riusciti a vendere di corsa. Chiaramente chi è andata dopo, che tra l'altro è un'amica, è diventata amica, ci ha raccontato che anche lei ha dovuto cercare di stare un po' che quelli sono vicini pazzi. Anche lei ha vissuto, beh, certo, il male. Non è che avete fatto un piacere alla vostra amica vendendo di casa? No, dopodiché no. Però ecco, è stata più brava di noi, perché sono coppia un po' più avanti con l'età, ero spesso all'estero, per cui hanno vissuto pochissimo questo fatto qua. Noi, mio marito e i figli, sì. È una casa maledetta, c'era proprio una maledizione in quella casa. E praticamente in quel palazzo sì, o magari oggi, non so, ma anche la vicina che abitava l'ultimo piano, penultimo, l'ultimo della signora, anche lei non poteva far nulla, e quindi lei non poteva far nulla, cioè era un disastro, era un problema serio, chiaro, questo purtroppo succede per tutto. C'era un'angoscia quotidiana? Un'angoscia quotidiana, ripeto, noi avevamo appena preso la macchina, a parte l'appartamento, la macchina. Noi, il mio marito l'ha trovato proprio tutto rigato per dover riverniciare tutta la macchina Mercedes, veda un po' lei quando abbiamo dovuto spendere il danno che ci ha fatto, ma non avendo avuto la testimonianza, o perlomeno chi ha visto, non avendo niente in mano, sia macchina di mio marito che sua, abbiamo dovuto spendere la nostra cifra. Ma perché ancora pensa che sia stata la vicina? Perché dovrebbe avervi creato la macchina? Perché non c'era nessun motivo. Siamo parlando di Parma, una città molto tranquilla all'epoca, forse adesso un po' meno, molto serena, una zona tranquilla. Onestamente non c'era motivo, perché io già avevo già vissuto a Parma, per cui era la seconda volta che tornavo a Parma, quindi non c'era, impossibile che non sia lei. Ma mai provato lei a parlarci prima di finire, diciamo, di andarsene, di arrivare ai ferri? No, no, no, anche perché onestamente vedo loro tornare a Milano, quindi per me... Ma quindi anche lei da parte sua non è che le stava simpatica questa vicina? A me, guardi, io ho vissuto, ho subito, abbiamo subito tanto, abbiamo subito in silenzio. Tanto, tanto tempo. Ma lei signora, lei signora da dove viene? Da dove viene lei? Qual è la sua terra d'origine? Io? Sì. Io sono nata all'isola di Capoverdi, sono in Italia dall'88. Sono italiana solo di passaporto. Ma può essere che c'era un pregiudizio perché lei era straniera, magari le stava... sa com'è, io ho sempre fatto finta di niente, ma questo esiste come? Molto forte. Pensa che alla base era proprio quello, che era una straniera e non tollerava di averla sotto casa sua. Tutto è possibile. Come no? Ormai questo esiste, esiste come? Parma non ne parliamo. Ma l'altro, diciamo, il resto della famiglia, il marito e il figlio? Mio marito è quello che praticamente ha subito di più, perché essendo un uomo, vedere questa donna che faceva i sorrisini, sfidandolo, no? Perché gli stavo proprio facendo capire che è proprio lei, certo non è stato facile per lui, non è stato facile. Ah, cioè lei gli faceva capire che era lei stata a rigare la macchina, a fare rumore la notte, così? Sì, lei le ha fatto capire, sì, cioè il mio marito l'ha fatto capire, gli ha detto, è chiaro che questa si è divertita, ripeto, tant'è vero che un giorno, una sera, cioè, un'amica, parlai con una mia amica, questa mia amica decise di dormire a casa mia. Per provvedere, per sentire veramente. E così mia amica chiaramente ha scontrato questo. E fatto sta che il giorno dopo mia amica l'ha aspettato sulla rampa della scala. Ed è successo che hanno litigato. Hanno litigato la mia amica, che ha preso, insomma, diciamo, parola per me, in poche parole, cercando di... Hanno litigato, è chiaro che, tant'è vero che nelle denunce c'era anche questa testimonianza, questa amica qua, però la denuncia è finita così, non è andata nessuna parte, è finita lì e basta. Io credo, come dice lei, forse c'era anche un po' di cattiveria, perché insomma, forse non essendo italiana, forse stando bene, forse dava un po' fastidio, diciamo anche questo, va. Vabbè, adesso vi siete... Dove sta adesso non c'ha questo problema, sì? No, dove sono a Milano non ci sono. Non ho mai avuto questo problema finora. Quindi non era, diciamo, colpa sua, non era la sua mania. Era oggettivamente una vicina cattiva. Diciamo era una coppia così. Perché tanto è vero, anche nel lavoro ho saputo che sono proprio così aggressivi. Sì, sono persone, quelle poche parole, che insomma la vita le è andata non so come, che problemi hanno, perché sono cose, io psicologicamente penso, traumi che sa solo lei. Ma che problemi hanno avuto? Cosa le risultava? Lei nulla? A me risulta sono persone che hanno avuto insuccessi, ma nella vita carattere reale, ecco, non ce l'hanno fatto a subire il passato. Vabbè, questo, quelli sono fatti loro. Vabbè, ognuno di noi ha i suoi problemi. Lo so, ma c'è chi poi lo applica nelle cattiverie, facendo del male agli altri. Vabbè, adesso lei mai pensato a altri sistemi, fare delle vendette, rigare la macchina alla vicina? Non vado da nessuna parte, anzi, al contrario, perdonare e cercare di capire il perché. Sono sempre stata quella che cerco di capire il perché, tant'è vero, gli ho fatto capire traumi, punto lì. Vabbè. Fine. Perché è l'unico modo per poter vivere meglio nel mondo. Vabbè, mi sembra un'ottima filosofia di vita. Ormai passato, la vicina continuerà a far del male, a fare dispetti a chiunque, sì, esatto, si troverà sotto i tacchi. Credo vivrà sempre così questa persona qua, non c'è via d'uscita. Vabbè, vivrà male, saranno problemi suoi alla fine. Proprio no? Così, credo proprio di sì. Vabbè, buon viaggio, grazie. Grazie. Bella storia. A lei, buon grazie, a presto, lei. Presto. Arrivederci, grazie, salve, salve. Il treno va. Ed eccomi arrivato al videomessaggio di una sventurata e sconsolata ragazza, una ragazza giovane, posso intuire dalla storia che mi racconta, che ha fatto quello che fanno molte ragazze, non più nemmeno tanto giovani, di cercare l'amore per una vita nel luogo in cui è più facile trovare la storia per un'ora. Caro Gianluca, tutto è cominciato 2 anni fa, quando ho conosciuto un uomo in chat. Da subito mi è stato molto simpatico. Abbiamo cominciato a sentirci al telefono per diverso tempo. Eravamo concordi sul fatto che nessuno di noi due aveva particolare fretta nell'arrivare al dunque. Per quel che mi riguarda, parlandoci in chat o al telefono, avevo la possibilità di capire quanto mi piacesse realmente, senza dover prendere impegni di altro tipo. Quando poi alla fine mi ha convinto ad incontrarlo, ormai avevamo raggiunto un livello di naturalezza tale da rendere tutto semplice. Ci siamo visti in un luogo aperto e alla fine ci siamo baciati. Dopo quell'incontro ci siamo rivisti però con una certa fatica, visto che lui aveva sì desiderio di rivedermi, ma era anche pieno di impegni. Un giorno mi ha detto però una cosa che mi ha fatto drizzare le antenne. Mi aveva spiegato che non potevamo vederci a cena perché aveva un appuntamento con il fratello. Dopo una settimana però, evidentemente scordandosi di quanto detto a me, mi ha riferito che la madre si lamentava del fatto che il fratello non lo vedevano da diversi mesi dopo il suo trasferimento in un'altra città. Dunque, palesemente quel giorno, non aveva un appuntamento con il fratello. A questo punto ho deciso di fare qualche verifica. Sono andata su Facebook e guardando bene il suo profilo ho avuto l'impressione che fosse molto costruito. Diciamo pure che mi sembrava fatto ad hoc per conoscenti, non amici, anche se riportava il suo nome e cognome. Dai nomi dei suoi contatti ho scoperto che aveva anche un profilo gemello dove invece, come temevo, appariva felicemente fidanzato con foto, ricorrenze, vacanze e cuoricini a profusione. Cara mia, se tu vai in stagione di funghi in un bosco dove nascono funghi e dici che vai cercando margherite, poi non puoi lamentarti. È questo, naturalmente, hai trovato uno dei tanti uomini che fanno i seduttori seriali online. Passano il loro tempo futile nel cercare povere ragazze desiderose d'amore, appunto come te, per illuderle di aver trovato l'eterno amore. Hanno molto tempo a disposizione, hanno un computer acceso sul quale probabilmente dovrebbero lavorare in qualche ufficio in cui sono relegati o in qualche serata sciatta con la moglie a letto che dorme, con i figli nella culla, chiuse nel salottino, si immaginano dei rubacuori fantastici e tu sei incappata in uno di questi. Ti è andata anche bene perché è soltanto fidanzato, non è che sia sposato, non è che ha figli, non è che ha una, due, tre, quattro famiglie. Sarebbe stato per te più arduo districarti da questa storia. In fondo, uno fidanzato puoi anche pensare che te, magari, se nel perverso disegno di perseguire il tuo sogno d'amore, desiderassi di avere questo uomo per un periodo un po' più impegnativo che qualche uscitina pomeridiana, così per chiacchierare e magari provare a fare qualcos'altro. Niente di nuovo sotto il cielo. Sarò stata anche ingenua a fidarmi. Ho provato a farmi passare l'incazzatura, ma non c'è niente da fare. Non lo sopporto. Mi ha preso in giro. Ad ogni modo ho evitato vendette. L'ho semplicemente chiamato e ho giocato come il gatto col topo. Più andavo avanti nella conversazione, più gli facevo capire che sapevo. Alla fine, nell'imbarazzo, balbettante, ammette che era fidanzato ma che non amava più la sua fidanzata, che stava molto male e che aveva bisogno di tempo. A quel punto non gli ho creduto e avevo ragione. Dopo 3 mesi con la fidanzata perfettamente ristabilita, mi ha detto che non riusciva a lasciarla. L'ho mandato a quel paese. Per 1 anno non ci siamo sentiti. Poi, 1 settimana fa, mi ricontatta su Facebook e ci risentiamo. Che cosa vuole da me? E lo ha detto chiaramente, vuole solo fare sesso perché non riesce a lasciare la fidanzata. Ecco, ci voleva tanto a dirmelo da subito. Io a questo punto mi voglio vendicare, quindi gli ho detto che ci sto, anche se non è vero. Lo sto illudendo esattamente come lui ha illuso me. Sono tentata di dargli un appuntamento in un caffè e convocare allo stesso orario, a sua insaputa, la fidanzata. Vorrei che questa poveretta sapesse con chi sta. Però allo stesso tempo non voglio sentirmi una donnetta vendicativa. Dimmi tu allora come ti vendicheresti, visto che non ti manca la fantasia. Accetto suggerimenti. Grazie. E perché mai cercare una vendetta così lunga, fastidiosa, elaborata, perigliosa? E tu devi fare i conti con una donna sicuramente molto arrabbiata, che vedrà in te comunque la tentatrice, la subdola maliarda che le ha provato a portar via l'amore di una vita. Non credere che sia così tranquilla, così leggera. Non immaginarlo come un trionfo, questo incontro improvviso a tre in cui lo metti di fronte alla sua infingardaggine di averti nascosto una fidanzata. Non te lo consiglio. È spiacevole, è fastidioso, porta angoscia, porta ansia. Decidi tu. Lui ti ha fatto la proposta di quello per cui normalmente è stato pensato, progettato, sviluppato e messo a disposizione degli utenti un sito di incontri online. Ti ha detto che ti vuole soltanto per qualche ora di sesso, sano, piacevole, disimpegnato. Doveva dirtelo da subito, sarebbe stato meglio, ma tu di fronte a questo non avresti ceduto. E poi sai, gli uomini hanno questa sorta di vanagloria che alimenta molto la loro lussuria. Vogliono avere l'illusione che qualcuno li ami, anche se una persona che hanno turlupinato, che hanno preso per strada, che hanno raccolto in un momento di disperazione. Lui voleva questa illusione di averti sedotto. Non ti ha sedotto, ti ha fatto soltanto arrabbiare. Non credo che per te sia più oggetto di desiderio. Lascialo perdere, lascia che vada a sbattere la sua testa satanata a qualche altra parte. Perché, ti dico in confidenza, se dopo un anno non ha trovato nient'altro per il suo sollazzo e ritorna in questa triste ripresina con te, sta veramente messo molto male, senz'altro peggio di te.